con Giorgina P. dell'Angelo Mai per parlare di Mai così tante, concerto del 1º maggio all'Angelo Mai. Giorgina, buongiorno. Ciao, buongiorno. Raccontaci com'è nato tutto questo. Allora, tutto questo è nato come un gioco, vero? Come un gioco è venuto in mente a delle artiste molto amate che sono Diana De Hera e Angela Baraldi, che già da tempo, da mesi, si muovono molto su Roma per organizzare incontri ed eventi in cui le donne musiciste abbiano un risalto. E giustamente, avendo notato da un articolo in particolare uscito di Michele Monina la clamorosa assenza di musiciste sul palco del 1º maggio a San Giovanni, in maniera giocosa e provocatoria hanno detto: ma facciamo vedere quante siamo e facciamola all'Angelo Mai. Questo perché? Semplicemente perché l'Angelo Mai, come tu ben sai, è un luogo dove è possibile organizzare le cose con spontaneità 2 giorni prima, è possibile semplicemente mettere insieme le forze di artiste che normalmente frequentano e inventano dentro quel luogo e dunque le forze generative sono veloci. In questa velocità è successo che moltissime donne hanno risposto e aderito a questa iniziativa. Questa iniziativa che, come al solito, ha appassionato moltissimo la stampa, stampa anche di destra, stampa cattolica, stampa di tutti i tipi, che pur di entrare in conflitto con i sindacati e cose di questo tipo, si attacca a qualunque pretesto. Noi chiaramente facevamo un ragionamento un pochino più alto, diciamo, dei sindacati ce ne sbatteva anche poco, il tema era come sia profondamente patriarcale la cultura artistica in questo paese sotto ogni punto di vista. Fatto sta comunque che tutto ciò ha generato una particolare preoccupazione da parte della Questura di Roma. Sembrava improvvisamente che ci fossero 2 piazze San Giovanni attaccate l'una all'altra, una conflittuale e l'altra bonaria in qualche modo, e tutto ciò ha creato un allarme che ha fatto dimenticare semplicemente che uno, noi siamo un circolo Arci, dunque tutta una serie di questioni che anche il Messaggero stamattina ha pomposamente sventolato, non ci riguardano, quindi permessi di pubblico spettacolo o cose di questo tipo, siamo un regolare circolo Arci. L'unico passaggio che ci manca, che forse non riguarda esattamente la questura, è l'assegnazione definitiva come molti spazi di Roma. Detto ciò, però, eravamo, come dire, nel pieno titolo di fare un'iniziativa come tante altre che continuamente facciamo. E invece è nato questo momento di grande allarme ieri, per cui a un certo punto sembrava che fosse un evento pericolosissimo, a rischio terrorismo, non so cos'altro. Insomma, si è proprio paventata, il suo atteggiamento era quello di dire non lo fate, punto. Quando abbiamo chiesto perché, nessuno ci ha risposto in maniera chiara. La nostra risposta è stata quella di riunirci ieri sera in assemblea e decidere ovviamente di farlo. Innanzitutto per la portata anche simbolica che il 1º maggio ha sempre avuto e che in questo momento in particolare credo vada un pochino ribadita. E poi perché ci sembrava veramente allucinante che un'iniziativa vicina a molte altre che svolgiamo regolarmente improvvisamente diventasse un punto problematico e costituisse un caso di ordine pubblico. Insomma, sappiamo bene che nei casi di ordine pubblico si nascondono sempre questioni d'anni affatto piacevoli. Oh, vedo un elenco di più di 30 artiste e ci saranno anche delle presentatrici. Assolutamente, assolutamente, delle artiste miste, musiciste, attrici, ci saranno vari interventi proprio all'insegna del fatto che ci piace raccontare quanto comunque già normalmente ci incontriamo, creiamo insieme e generiamo visioni, cosa che non so quanto accada su palchi completamente maschili, diciamolo. Sarà un doppio obiettivo, oltre al genere c'è chiaramente la questione lavoro sempre attuale, legata soprattutto al reddito in questa fase storica. Sì, diciamo che nella mentalità patriarcale, che è esattamente quella che giocosamente volevamo colpire, le cose non sono mai scisse, cioè l'attacco alle donne è totale, sotto ogni punto di vista. Non andiamo bene per nulla per il sistema attuale. Dunque è chiaro che quanto ben intesi, amiamo festeggiare il non lavoro, se il lavoro è quello che intendono loro. In ogni caso, certo che questo 1º maggio è simbolico anche da questo punto di vista, dal punto di vista degli spazi, dal punto di vista del reddito, dal punto di vista di come ci vogliono, di quello che dobbiamo essere per lavorare, e questo è allucinante. Tutto a partire dalle ore 18, giusto? Esattamente, esattamente. Ok. E allora ricordiamo l'appuntamento all'Angelo Mai, oggi 1º maggio, mai così tante, concerto all'Angelo Mai. Un saluto e un ringraziamento a Giorgina P, ci vediamo lì. Un saluto e un ringraziamento a te, a dopo, un abbraccio, Ciao. ciao, ciao.